Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Naturalmente potete trovarci anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. E recentemente anche siamo in DAB, una modalità che ci permette di ampliare il nostro raggio d'azione via radio, diciamo così, nella vostra radiolina preferita. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì per un paio di ore vi propone musica registrata dal vivo di ogni genere, quasi di ogni genere e soprattutto di ogni epoca. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e oggi è una novità veramente succulenta. Vi ho detto la settimana scorsa che sono usciti due album sorprendenti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane per meglio dire. Vi ho fatto ascoltare la scorsa settimana l'album live del Third Mind, che è veramente notevole. Di tutt'altro genere, ma altrettanto notevole, è quello che vi propongo oggi. La band in questione si chiama Letius, che sarebbe poi la Lattuga, un nome che veramente è strano, almeno per quel che mi riguarda. Letius è una band che si è formata al Berklee College of Music di Boston, quindi sono musicisti, diciamo, diplomati, laureati, e la loro musica spazia dal funk al jazz a tutto quello che ci possono mettere dentro. Hanno fatto diversi album live, molti dei quali sono autoprodotti e sono tutti molto interessanti, anche se di difficile reperibilità. E non avendo abbastanza di tutta questa commistione di suoni, i Letius hanno fatto uscire questo nuovo album che si chiama With the Colorado Symphony, che è tutto un programma. Naturalmente è stato registrato con la Colorado Symphony Orchestra, è un doppio ed è veramente molto molto accattivante per quel che mi riguarda. Il tutto è stato registrato alla Butcher Hall di Denver in Colorado il 10 novembre del 2018, e insieme appunto alla Colorado Symphony Orchestra, diretta sarebbe meglio dire, da Chris Dragon. Ci andiamo subito ad ascoltare il brano che vi propongo, è un brano che si chiama Gang 10, loro sono Letius. We'll be right back. Un nome facile da ricordare, Lattuga, in inglese lettuce, spero che l'accento sia messo al posto giusto. È grande band già di suo, ma che con un'orchestra, in particolare la Colorado Symphony Orchestra, acquistano un sound veramente notevole e secondo me molto molto coinvolgente, molto molto bello. Gang Ten, il pezzo che ci siamo ascoltati da questo album che, come vi dicevo, è stato registrato a Denver il 10 novembre del 2018, quindi non è freschissimo, ma è sicuramente molto bello. L'ho già fatto altre volte, quello di proporvi brani di bands o musicisti rock insieme alle orchestre classiche, e oggi mi ripeto, lo faccio ancora, anche se ho cercato di mettere cose che solitamente, che altre volte non ho messo. Ce ne sono veramente tantissime e andiamo ad iniziare da una delle più vecchie. Tutti sanno, o se non lo sapete ve lo ricordo, che praticamente il primo album live di un gruppo rock con l'orchestra è quello dei Deep Purple. Ma sono 5 movimenti tutti lunghissimi, e oggi invece voglio proporvi in questa prima parte dei brani che non lunghissimi, ecco, diciamo così, per cui vado a quello che secondo me è stato il secondo album di un gruppo rock, nello specifico i Procol Harum, insieme a un'orchestra classica, nello specifico l'Edmonton Symphony Orchestra. E fra l'altro anche un coro che si chiama The Camera Singers. Questo album è un altro di quelli che vedrai molto bene in ristampa aumentata. Infatti la versione in CD rispetto a quella dell'on plan, che è quella che ci ascolteremo, la versione in CD ha solamente 2 brani che però sono quelli delle prove, per cui non vale, diciamo così. Loro, appunto, Procol Harum, hanno registrato questo album ad Edmonton in Alberta, stato del Canada, che ha recentemente votato, per fortuna, nel migliore dei modi, e 18 novembre del 1971 è quello che ci andiamo ad ascoltare, è il brano che apre l'album, un super classico dei Procol Harum, si chiama Conquistador. Yeah. Which I forgot when I started to sing. Drift further away from the shore and deeper into the drift. Sat on the bottom of the ocean, a stern and stubborn rock. Your songs remind me of swimming, but somehow I forgot. I was sinking and now I'm sunk. I was drinking and now I'm drunk. Your songs remind me of swimming, but somehow I forgot. I tried to remember the chorus, I can't remember the verse. That song that sent me swimming is now the life jacket that burns. dei più vecchi album live con l'orchestra, quello di Procol Harum, a uno dei più nuovi, quello di Florence and the Machine. Ve l'ho proposto qualche settimana fa come novità, da parte di questa band che è attiva dal 2007. Symphony of Lungs si chiama l'album, è stato registrato alla Royal Albert Hall di Londra l'11 settembre dell'anno scorso, 2024, insieme a Julius Buckley and His Orchestra. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Swimming. Molto velocemente arriva adesso Peter Gabriel, che spero non abbia bisogno di presentazioni. Il suo Live Blood è stato registrato all'Hammersmith Apollo di Londra il 23 e 24 marzo del 2011 insieme alla New Blood Orchestra. Il brano che ho scelto forzatamente per questione di tempo si chiama The Drop, Peter Gabriel. Your mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs, singing just for me. Storia travagliata quella dei Barclay James Harvest che ci siamo ascoltati. Si sono uniti, sono stati fondati in Oldham in Gran Bretagna nel 1966, poi dopo anni di di grandi successi, soprattutto in Gran Bretagna, si sono divisi in due parti. Abbiamo i John Lees Barclay James Harvest. John Lees era, è tuttora il chitarrista di questa band, e lo era anche nei Barclay James Harvest. E poi abbiamo invece Barclay James Harvest featuring Les Holroyd, che è il bassista. Praticamente fanno la stessa musica, ma evidentemente a livello personale non vanno molto d'accordo. Il brano che ci siamo ascoltati, uno dei loro grandi classici, si chiama Mockingbird. È stato registrato al Paris Theatre di Londra il 16 di novembre del 1972 e infatti fa parte della serie BBC Radio 1 Live in Concert. E il tutto registrato insieme alla Barclay James Harvest Symphony Orchestra, un'orchestra che è stata assemblata appositamente per questa occasione, che porta il nome stesso della band. Mockingbird, secondo me un brano veramente molto molto molto bello. Ci sono personaggi che fanno un po' tutto nel mondo della musica. Uno di questi è Steve Wilson, che molti di voi conosceranno come leader dei Porcupine Tree e autore di una propria carriera solista e richiestissimo come remixatore di album vecchi. E un altro invece è Alan Parsons, un sound engineer, un ingegnere del suono che ha lavorato con i Pink Floyd, con i Beatles, fra gli altri, diciamo, i più famosi, e poi anche in proprio ha un'attività in proprio. Lui viene dal Middlesex, in Gran Bretagna naturalmente, e l'album che ci andiamo ad ascoltare è accreditato ad Alan Parsons Symphonic Project, appunto il progetto sinfonico di Alan Parsons, con l'orchestra che ha assemblato lui stesso per questo tour, che l'ha visto il 31 ottobre del 2013 in concerto in Colombia. Infatti questo album si chiama Live in Colombia, è stato registrato al Park de los Pies Descalzos, spero di averlo detto bene, praticamente il parco dei piedi scalzi a Medellin in Colombia, appunto. Il brano che ho scelto per voi si chiama Breakdown, Alan Parsons. Can understand the word that I say. What can the judges, did they ever to read between your lines? With your cage and the human zoo, they all stop to look at you. At you. What will you do when you have been forgotten? Finale di concerto roboante, oserei dire, per questi Styx. Finale di concerto con il loro più grande successo, si chiama Miss America. Questa band arriva da Chicago, è attiva dal 1972, quindi tantissimi anni, con diversi break all'interno di questo lasso di tempo. Hanno un grandissimo successo negli Stati Uniti e nel corso di tutta questa lunghissima carriera hanno fatto 9 album dal vivo, quindi direi che sono un numero abbastanza succoso. Questo che ci siamo ascoltati è un combo, cioè c'è il CD più il DVD, e si chiama One With Everything. È stato registrato al Blossom Music Center di Cuyahoga Falls in Ohio il 25 maggio del 2006 insieme alla Contemporary Youth Orchestra, e anche un coro che però non è segnalato, diciamo. E questo gruppo che, come dicevo, ha un grande successo negli Stati Uniti ed ha avuto il numero uno in classifica appunto con questa Miss America che ci siamo testé ascoltati. E non ci sono solo queste band così roboanti, così famose in giro per il mondo, che suonano con l'orchestra e non suonano anche con grandi orchestre, nel senso che non tutti possono permettersi la London Symphony oppure queste orchestre piene di fiati, di archi. Alcuni fanno delle orchestrine, fra virgolette, senza nulla togliere naturalmente, un po' più ridotte. Una di queste band si chiama Nada Surf. Sono stati fondati nel 1992, sono tuttora attivi naturalmente. I due fondatori, che si chiamano Matthew Cose, che sono la chitarra e canta, e Daniel Lorca, che sono il basso e canta anche lui, hanno passato molti anni in Europa a seguito della famiglia. I padri, se ricordo bene, erano dei diplomatici e giravano appunto nelle varie sedi diplomatiche europee. Si sono conosciuti alla scuola di lingua francese, infatti loro parlano molto fluentemente il francese, e hanno passato diverso tempo in Europa proprio facendo i buskers in giro per, magari li abbiamo visti anche qua a Bologna, ma non credo. Alcuni dei loro album dal vivo sono autoprodotti, anche in questo caso li potete trovare sul loro sito, ma anche qui ci sono abbastanza dei problemi. Questo invece è un album ufficiale, lo potete trovare nei negozi, e si chiama Peaceful Ghost. È stato registrato a Babelsberg, a Potsdam in Germania, insieme, adesso dirò una castroneria incredibile, insieme alla Deutsche Filmorchester Babelsberg. più o meno, insomma, l'orchestra da film di Babelsberg, l'orchestra tedesca di film di Babelsberg, il tutto per RBB Radio, una emittente locale naturalmente, il 21 giugno del 2016. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Beautiful Beat, loro sono Nada Surf, a concludere questa ancora una volta breve rassegna di album di gruppi o artisti rock insieme all'orchestra. Beautiful beat, lift me up from Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, mercoledì 30 aprile 2025. Anche questo mese se n'è andato, mese che è stato nobilitato da un bellissimo concerto di Kamasi Washington all'Estragon, una cosa veramente sublime. E abbiamo iniziato la seconda parte, come sempre, con la novità che vi propongo quest'oggi: nuovo album live per il Letius, che ne hanno già fatti diversi, che potete trovare forse sul loro sito, visto che molti sono autoprodotti. Questo invece è ufficialissimo, lo trovate in tutti i migliori negozi, come si diceva una volta. È un album che è stato registrato con la Colorado Symphony Orchestra, e infatti si chiama Letius with Colorado Symphony, semplicemente. Il tutto registrato il 10 novembre del 2018 a Denver, in Colorado, insieme appunto all'orchestra che è stata diretta da Chris Dragon. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Requiem, non è quello di Verdi, nemmeno quello di altri grandi del passato, ma quello che ci hanno proposto i Letius in questo splendido doppio album. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. E so che sono tedioso, ma ancora una volta tantissime cose registrate in questa giornata, ma il criterio di scelta è ancora una volta quello di un brano per ogni decade. E iniziamo subito dal 1971, insieme a una grande band che è sempre stata molto osteggiata dalla critica, ma che soprattutto negli Stati Uniti ha avuto un successo incredibile negli anni 70. Si chiamano tuttora Grand Funk Railroad, anche se dell'originale trio sono rimasti in due, ma se n'è andato il fulcro della questione, il leader, il chitarrista Mark Farner. E loro, diciamo che vengono tuttora da Flint nel Michigan, e appunto sono attivi dal 1969, anche se hanno avuto diverse interruzioni, appunto una quando se ne andò appunto Mark Farner, e gli altri due dovettero pensare che cosa fare. Questo album, che anche loro hanno il loro bravo album con l'orchestra, ma ve lo farò ascoltare un'altra volta. Loro hanno fatto diversi album live, tre per la precisione. Questo è il terzo, che si chiama Live 1971 Tour, e però è stato pubblicato solamente nel giugno del 2002, dopo che Mark Farner se n'era già andato. Ma Mark Farner c'è in questo album, diciamo che è il trio originale, il trio vero, quello dei Grand Funk Railroad. È stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è l'ultimo del dischetto, ed è stato registrato alla Cobo Hall di Detroit il 30 aprile del 1971. È un brano un po' lunghetto, ma sicuramente molto molto accattivante. Into the Sun, Grand Funk Railroad, 1971. Thank you. Dentro al sole, Into the Sun, il brano che ci siamo ascoltati e che usualmente concludeva i concerti dei Grand Funk Railroad. Anche in questo caso, sebbene appunto questo album live del 1971 Tour sia assemblato in diverse, con diversi brani registrati in diverse occasioni, però la scaletta più o meno è rispettata e l'ultimo brano è appunto in questo Into the Sun da parte di questo trio che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, un po' meno nel resto del mondo, anche se a dire il vero a mio onore va il fatto che all'epoca, bimbetto com'ero, però ero molto intrigato da Grand Funk Railroad, soprattutto dai lunghissimi capelli di Mark Farner, che naturalmente non c'entrava niente con la musica, però anche la musica era veramente molto molto interessante. Into the Sun era il 30 aprile 1971. Beh, dopo ho cambiato un po' genere, infatti arriva negli anni 80 una band che si è chiamata per qualche tempo Discipline. Non so bene perché, ma per un certo periodo Robert Fripp non voleva che i King Crimson si chiamassero King Crimson. Non chiedetemelo, magari una volta che lo incontreremo glielo chiederemo. E infatti per un breve periodo la band composta da Robert Fripp, Adrian Belew, Bill Bruford e Tony Levin, in pratica appunto i King Crimson, si chiamavano Discipline. Hanno fatto solo due album, se ricordo bene, uno dal vivo, che è questo che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato al Moles Club di Bath, splendida cittadina britannica. Il Moles Club è un piccolo club che ha avuto un certo successo per un certo periodo ed è stato registrato il 30 aprile del 1981. Naturalmente sono tutti brani dei King Crimson. Discipline da lì a poco avrebbero poi ripreso il vecchio nome. Questo album fa parte della serie King Crimson Collectors Club, il numero 11. Diciamo che la qualità sonora non è al massimo, perché è un audience recording, cioè quella registrata da qualcuno del pubblico o nel pubblico, semplicemente con un microfono e probabilmente all'epoca un registratore a cassette. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama The Sheltering Sky, che guarda caso è il titolo dell'ultimo album live dei King Crimson che vi ho proposto qualche mese fa. Ci andiamo ad ascoltare, come dicevo, 30 aprile del 1981, e il brano che ho scelto è appunto The Sheltering Sky. Thank you. uno dei grandi successi di una band di grande successo americana. Loro si chiamano Cheap Trick, l'album si chiama Surrender. Cheap Trick sono formati nel 1973 naturalmente a Rockford in Illinois, e dopo un paio di album di discreto successo hanno avuto un successo planetario con un live che si chiama At Budokan, tutto questo nel 1979. Da allora hanno fatto diversi album live, questo è uno di quelli, si chiama Music for Hangover ed è il secondo album della loro live della loro discografia. È stato registrato al Metro di Chicago, Illinois, durante una residency di 4 notti, dove ogni sera facevano un album diverso. La sera del 30 aprile, quella del 1998 per la precisione, era la sera in cui omaggiavano il loro album di maggior successo, appunto At Budokan, e questa Surrender che ci siamo ascoltati era uno dei classici contenuti in quell'album live, molto molto bello. 30 aprile 1998. A rappresentare i primi anni 2000 arrivano i miei benamini, si chiamano Goth Mule, è una band che nacque come side project rispetto all'Lehman Brothers Band, cioè quando l'Lehman Brothers Band era in riposo, giusto per continuare a suonare Warren Ace e Alan Woody, chitarrista e bassista dell'Lehman Brothers Band, assemblarono questa band, che appunto Goth Mule, che all'indomani dello scioglimento ufficiale dell'Lehman Brothers Band divenne proprio il loro fulcro, il loro gruppo principale. Purtroppo poi Alan Woody ci ha lasciato nell'agosto del 2000 e da allora c'è stato tutto un susseguirsi di bassisti fino all'ultimo, che abbiamo visto qui in concerto a Bologna lo scorso anno al Teatro delle Celebrazioni. Hanno fatto un sacco di cose dal vivo, come del resto è normale per una jam band, e questo è una cosa un po' particolare, però nel senso l'album si chiama New Orleans ed era spedito gratuitamente a chi preordinava l'album High and Mighty del 2006. Cioè tu ordinavi l'album, anche se non era ancora uscito, un preordine, e al momento dell'arrivo dell'album, che è un CD, c'era anche quell'altro CD dal vivo con tutte le registrazioni veramente molto interessanti, registrate naturalmente a New Orleans, visto che si chiama New Orleans. In particolare il primo è stato registrato all'Orpheum Theater della città insieme alla Dirty Dozen Brass Band, che è una band che ha una sezione fiati notevole, che presta spesso in giro. E tutto il 30 aprile del 2004, il brano che ci andiamo ad ascoltare è un classico del blues, noi lo chiamiamo Giovanni Battista, loro invece nei paesi anglosassoni lo chiamano John the Revelator, Goth Mule. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seals. The God walked down in the cool of the day, called heaven by his name. Well, he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator wrote the book of the seven seals. Christ had 12 apostles, 3 he led away. So watch for me 1 hour while I go yonder and pray. So tell me who's that right. Revelator wrote the book of the seven We'll be right back. largo spazio lasciato ai fiati della Dirty Dozen Brass Band da parte di Gov Mule. Il brano si chiama John the Revelator, era il 30 aprile del 2004 in quel dell'Orpheum Theater di New Orleans ed era rappresentava appunto gli anni 2000 con questa registrazione effettuata il 30 aprile, quest'oggi appunto nel 2004. Naturalmente, come al solito, sono lungo, per cui subito velocemente vi ringrazio per l'ascolto. Vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live di quasi tutti i generi, ma di ogni epoca, e lo dimostra appunto Record Today. Siamo partiti dagli anni 70 e arriviamo al 2015 insieme a una ottima, grande band italiana. I fratelli Diamantini, Marco voce chitarra e Michele solo chitarra, hanno fondato a Pesaro i Chipwine nel 1997. Hanno fatto due album live, il primo molto elettrico, si chiama Stay Alive, molto bello, e il secondo invece praticamente acustico. Molto bello pure questo, si chiama Mary and the Fairy, è stato registrato al Teatro Sperimentale di Pesaro il 30 aprile del 2015, fra parentesi è uscito nel 2015, quindi sono 10 anni che i Chipwine non ci deliziano con un album live, speriamo che lo facciano presto. Andiamo ad ascoltarci questo brano che ho scelto per voi per forza, perché è il più corto, si chiama I Like Your Smell, loro sono Chipwine. Grazie di nuovo per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio.